e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Sono le 2.50 del mattino, sabato 10 novembre del 2018, siamo quindi quasi al termine di questa lunga serata, ormai nottata, qui al convento di Lonato, ma abbiamo ancora tempo, voglia e spazio per chiacchierare con alcuni amici ormai quasi di casa, perché dovrebbero essere le settime, ottave persone che vengono a chiacchierare con noi, quindi ci fa piacere conoscere ancora meglio altri ragazzi del gruppo di Mozzanica che festeggiano, se non ricordo male, la classe 93, quindi 25 anni. Benvenuti, benvenuti. Cominciamo con le presentazioni di rito, poi proseguiamo. Partiamo dalla signorina. Ciao a tutti, io sono Valeria. Valeria, ok. Matteo. Io sono Emanuele. Emanuele, perfetto, immagino tutti del gruppo. Questa è Nicola, l'autista, che ne ha già parlato prima. Sì, sì, no, no, è già entrato, è già entrato, ci ha già parlato prima. E siete tanti stasera, ho visto, no? Mi dicevano prima. Una ventina. No, siamo in 15. Ah, 15. 16. Saremo una trentina, però tanti ci hanno baccato. Poi è così, si dice non pochi ma buoni, ma che vengono quelli che ci credono e ci tengono di più, quindi diciamo che voi siete la creme della creme, insomma, non dico gli eletti. Esatto, la colonna portante, quindi è giusto andarne fieri. Cosa fate di bello, ragazzi, nella vita? Allora, io studio, sto facendo una magistrale in storia. Quindi non c'entra nulla quello che mi ha detto lui prima? No, mio papà. Ah, tuo papà. Allora, aspetta, ripetimi cosa studi, perché durava un quarto d'ora e quindi è difficile. Studio storia con indirizzo archivistico biblioteconomico. Ah, ok, va bene, adesso è un po' più chiaro. Con la speranza o l'idea di diventare? Vorrei lavorare con i libri antichi. Ma in che senso, in che ambito? Non so, nel senso, se mi va bene entrare in una biblioteca nazionale, se mi va male... Sì, beh, ma lavorare con i libri antichi in che modalità, ecco? Cioè, questo è l'argomento, libri antichi, la modalità? Sì? Nel caso, aiutare studiosi a analizzare i libri. E come si analizzano i libri antichi? Dal punto di vista del materiale, dal punto di vista del contenuto. Materiale, sì, come è fatta la carta? Sì, carta, sì? Caratteri, tipologia di stampa. Bellissimo. E sono informazioni che poi archiviate, cioè cosa succede? Cioè, o vi sedete a un tavolino, raccontate questo, no, libro è fatto così, poi basta, finita lì, no? No, si fanno ci sono delle pubblicazioni degli studi. Ah, ok, degli studi. Ho capito. Bello, molto molto interessante. Ma noioso. No, beh, noioso, insomma, ci sta, ognuno ha le proprie passioni, i propri mondi, e incrociarli col proprio lavoro è sempre il modo più bello, ecco, di passare la propria vita. Quindi in bocca al lupo, speriamo che vada bene. E poi, Matteo. Allora, io lavoro per un'azienda di cosmetici. Ma va, che non c'entra nulla. Cioè, sei come dire, non il meno uomo, l'uomo più lontano dalla definizione di uomo, perché uomo e cosmetica di solito non vanno d'accordo. Esatto. Io lavoro per questa ditta di cosmetici, lavoro al controllo qualità e sono responsabile e lavoro con 20 ragazze. 20 ragazze? Ok, da sfigato sei diventato l'uomo più intelligente del mondo, l'uomo più furbo probabilmente nel mondo, come cantava Max Gazzè. Perché sì, hai fatto... vedi, ha capito tutto dalla vita probabilmente. Controllo qualità significa? Bilanciamento delle sostanze, delle parti, no? No, significa rispettare gli standard dettati dal cliente. Ok. Quindi mandare sul mercato il prodotto con le quantità, le qualità rispettate che detta al cliente. Le percentuali in sostanza. Esatto. Ok, e c'è un controllo che si fa, immagino, a computer? No, un controllo visivo. Ah, visivo? Esatto. Noi passa tra le mani il prodotto come tu lo vedi sullo scaffale. Sì. Le ragazze lo analizzano e se rispetta gli standard definiti dal cliente. Cavolo, complicato. Abbastanza, viene controllato e viene approvato, diciamo, dai ragazzi. Certo. E messo poi sul mercato. Quindi diciamo che le diverse essenze sono perché ci sono una diversa percentuale di vari componenti, cioè la quantità, ecco, di percentuale di queste sostanze fa sì che venga fuori un'essenza diversa da un'altra, più o meno. Esatto. Detta male, più è concentrata, immagino, più è forte il profumo, più intenso il profumo. Ok, e mercato indipendentemente uomini, donne? Sì, per tutti. Che differenze ci sono tra i profumi da uomo e da donna? Non lo so, dipende da... Beh, più o meno, le macro differenze. Non lo so. Cioè, sono più delicati quelli da donna? Sì, immagino di sì. Sì, sono più delicati. Però io gestisco la parte logistica. Ah, ok, ok. Ok. Quindi io mi occupo delle spedizioni. In generale. Ok, ok, capito. E spedite Italia estero o solo Italia? No, tutto il mondo. Tutto il mondo, cavolo. È grossa, ma è sempre lì a Mozzanica? Fornovo. Mozzanica e Fornovo. Mozzanica e Fornovo, quindi sei anche comodo nel lavorare. Esatto, vorrei andare in bicicletta, quindi. Ah, perfetto, perfetto, in bicicletta. Tra l'altro, diciamo che io ho un po' il dono della chiaroveggenza e immagino che Matteo sia appassionato dei tatuaggi. Ho un po' questo sospetto, questo sentore. Sì, abbastanza. Bisognerebbe vederlo. Peccato che abbia una maglia a maniche lunghe che lo copre praticamente fino sopra il collo. Però io ho questa sensazione, mi sembra proprio uno da tatuaggio. E quindi ci ho visto giusto? Hai visto bene. Oh, beh, quanti ne hai? Non saprei perché. Cioè, in realtà ne ha tre, ma lunghi 40 metri, no? Esatto. Che libero solamente la gamba sinistra e facciamo prima. Ah, ecco, bravo, grazie. Vai per esclusione, che è un po' più facile. Mi è rimasta libera solo la gamba sinistra. A che età hai cominciato? Tra i 15 e i 16. Ok, fino a adesso quanti ne hai? Adesso 25. 25, quindi in 8 in 9 anni. E beh, banale dirti se hanno tutti un significato o un motivo o era solo per completare l'opera? No, la maggior parte, il 90% hanno un significato. Ok. Il restante 10% li ho fatti tra le varie vacanze, tra una serata e l'altra. Ok. È scappato un tatuaggio di troppo. Diciamo per ricordare la vacanza, ma anche no? Esatto, mettiamola così, dai. Vabbè, scegline uno, dai. Allora scegline uno e raccontamelo. Quello più importante, quello più significativo, vedi tu. Quello più importante, quello che mi è rimasto più nel cuore è quello che ho sulla mano sinistra, che l'ho fatto nel 2013 a Los Angeles, la prima vacanza in solitario. Wow! Da solo, me lo sono fatto a Hollywood, nello studio di Kat Von D. E... sei innamorata di te lei nel frattempo, in questi... No, scherzo. E per me è il più significativo. Raccontacelo un po', cos'è? Allora, è lo stato della California, che mi sono fatto nel 2013. Lo stato della California. Esatto, tutto lo stato con la scritta Los Angeles all'interno. Ed è il primo viaggio in solitario che mi sono fatto. Bellissimo, quindi è la parte della cartina americana che ricorda la California. Stupendo, stupendo. Bene, ultimo ma non ultimo, il signore qui che conclude il trio. Ciao a tutti, sono Emanuele, sono un imprenditore, lavoro nell'azienda di famiglia. Oh, imprenditore, bene. Parliamo di impianti elettrici. Impianti elettrici, quindi sia privati. Ah, civile e industriale. Imprenditore nel senso che è tua o... È di mio papà. Ok, il tuo ruolo è? Dipendente, operaio, magazziniere, faccio le veci di mio papà, faccio un po' di tutto. Oh, diciamo, il ruolo che vorresti avere è? Col tempo. Perché questo è il ruolo che hai, il ruolo che più vedi adatto a te? Col tempo, quando mio papà smetterà, prenderò in mano io Ah, quindi proprio ti piacerebbe prendere le redini dell'azienda. Beh, immagino che hai studiato in quel settore. Ho fatto il liceo scientifico che non c'entra. Perfetto, niente. Fantastico. Il liceo scientifico e poi elettronico. E come mai? Perché da come ne parli comunque è un settore che ti piace. Perché era già il lavoro della famiglia, l'azienda era già avviata e ho deciso di continuare anch'io nel lavoro che aveva scelto mio papà. Bene, beh, comunque è una cosa che ti piace, sennò chiaramente non ti butteresti, non ti butteresti in questa cosa. Bene, bello, bello, volete dire qualcosa? Volete salutare ancora qualcuno? Ah, non saprei, volete salutare ancora qualcuno? Non è obbligatorio, se volete dire qualcosa, sennò... Beh, salutiamo tutti voi che siete stati comunque tanti, perché a questo punto se davvero siete in 16 siete praticamente passati tutti di qui e quindi vi ringrazio e in bocca al lupo per le vostre vite, per quello che vi aspetta e per quello che volete fare e tornate a trovarci presto, questo sicuramente. Va bene? Grazie ragazzi, buonanotte, ciao! Ciao.